Aveva un bel microfono, eh? Ottimo, bellissimo microfono, c'ha il clip, c'ha due vie, poi l'ho preso anche per quello, eh? Ha due uscite, hai capito? Con due cavi usi due radio. E quindi è molto, molto interessante, molto importante se vuoi usare due radio con lo stesso microfono. Va bene che va bene, ok, quindi il segnale è già sempre buono, già va bene così. Gianni. E a voi a te è buono il segnale, più che buono di lì, per cui va più che bene. Ah ecco, ho capito, si possono usare due radio contemporaneamente o Claudio. Ascolta, ma se usi uno non usi l'altro, tutti e due accesi possono rimanere, non si interferiscono l'uno con l'altro. Suppongo che sia preparato apposta, che puoi fare sia per uno che per l'altro. Sì, c'ha due vie, c'ha l'interruttore, tu accendi le due radio, i due cavi sono attaccati. Interruttore 1, no? Posizione 1 come per dire 4.30, poi metto posizione 2, abbasso il volume del 4.30 e uso il 140, capito? È già preparato, già testato così, poi clippato. Quindi c'è il clip nel microfono, che entrano due entrate e due uscite, e vanno tutte e due col connettore Kenwu da 8 punte, è alimentato dalle radio, perché è 8 volts, capito? Va bene, è molto bello come microfono. È molto bella la modulazione, altro che è ottima veramente, no? Non c'è niente da dire, ci mancherebbe. È simile comunque, al 60, è simile, non è preciso, però è molto, ma molto vicino alla modulazione del 60, è veramente un'ottima radio. Beh, del resto con quello che costa e poi con quel sistema lì evidentemente che l'ha costruito sapeva il fatto suo, non ci sono dubbi. Va molto molto bene. Strano che ancora non è entrato, non ho sentito Mario nemmeno ieri sera, strano, Mario di Porto Torres, e nemmeno Carlo da Sassari, non l'ho ancora sentito nemmeno ieri sera, anzi Carlo non l'ho sentito nemmeno la mattina. Forse sta lavorando o ci sarà di servizio di mattina, non lo so. Vediamo un po', facciamo la chiamatina, vediamo se c'è Mario a Porto Torres. Mario, ci sei? Non c'è nessuno, dai. Non c'è nessuno, Carlo, cioè Claudio. Non c'è nessuno, siamo rimasti io e tu al momento. Poi Gianni non so se rientra, ma suppongo di sì. Gianni, sei rientrato? Ieri sera è entrato Mario. Gianni? Ehi, ci sono, va, stavo facendo un lavoretto qua. Al buio ho toccato una cosa e ho cambiato la frequenza, non riuscivo più a sentirvi, boh, cosa è successo? No, stai andando alla grande, non problem. Questo è il turner. Ehi, va bene, belli acuzzi, sì, ce l'ho anch'io il turner più 3. Ce l'ho anch'io, però li ho tutti messi da parte, intanto non li uso. Al Galaxy c'è il Savelta. R0 è apparso. CVD. E la coda del ponte dell'R7 Alfa, che fa così. KK. Ehi, già ne ho microfoni, già. C'ho più 3, c'ho Savelta, c'ho 4 MB più 5, 2 MB più 4. Ne ho amici 50 e ne ho un bel microfono e quelli ne ho un bel. C'ho più microfoni che radio adesso. Vabbè, già servono sempre. Quando non va bene uno metti l'altro e ormai ti hai fatto la collezione, tienila. No, è che ne ho dato un bel, assieme a tutti i vintage ho dato anche un bel microfono da tavolo, però ne avevo anche altri, capito? Ne avevo anche altri perché tutti i vintage erano tutti con i microfoni da tavolo, a me non piace avere i microfoni da palmo, e quindi è così, però adesso che ho solo i Kenwood ho praticamente i microfoni sui, anzi devo prendere un altro 60, figurati tu, però se non ne ho trovato usato, a comprarlo nuovo che se no costa un pacco di soldi. E allora sono andato sulla Donis che si assomiglia molto, un bellissimo microfono, l'ho avuto, poi è interessante perché c'ha due uscite microfoniche, capito? Quindi con un microfono puoi usare anche due radio diverse, sia Icom, Kenwood, due Yaesu, capito? Due Kenwood, due Yaesu, dipende, le fai tu le connessioni, le chiedi i cavetti in base alle radio che hai. Va va bene, avanti Giulio. Ok, sì, ne ho visto uno io di MC60 tre giorni fa su eBay, 76 euro più il trasporto, questo era anche disponibile a spedire, non lo so adesso se saranno venduto o meno, boh, comunque c'era su eBay, 76 euro l'MC60 e sembrava anche abbastanza nuovo, visto così in fotografia, Claudio. Lo so Giulio, però fino a quando io lo compro da Giulio, so che è Giulio, sino a quando lo compro da Gianni mi sta anche bene, ma quando lo compro da questa gente, a me mi è successo una volta che appunto, e poi ci ho rimesso io, perché chiaramente per non fare brutte figure ho dovuto dare il mio, io tenermi quello, bellissimo, nuovo, nuovo, nuovo, ma nuovo veramente, perché una bestia non ne compro, sapete. Mi è arrivato, l'avevo pagato 80 euro compresa la spedizione, quindi abbastanza abbordabile, l'ho attaccato al capo, mi metto le cuffie, questa voce nasina, ho detto ma cosa è successo? L'MC60 non esce così, non si vedeva niente, nulla, perfetto, me l'ho controllato tutto. Questo figlio di grande signora, che cosa ha fatto? Per far sì, per non accorgertene, per non girare la ghiera, perché se giri la ghiera te ne accorgi, perché è talmente precisa, se tu lo guardi il 60, tutte le posizioni sono praticamente in verticale con il piantone, io lo conosco molto bene. Questo ha tolto la retina, ha cambiato la capsula e poi ha rincastrato bene la retina, che io c'è il gomma e ti gioco, non me ne sono accorto, quindi aveva cambiato la capsula, aveva messo un'altra capsula e questo 60 faceva cagare, scusando il termine, ma usciva talmente male, tutto un asino, tutto brutta, modulazione brutta, non era corposa, niente. A questo ragazzo, che appunto non è di Sassari, gli ho dovuto dare il mio, per non fare figure brutte, brutte, brutte, perché preoccupatene tu, sia un professionista di queste cose, mi fido di te. Invece stavo andando a fare figure brutte, gli ho dovuto dare il mio e io mi ho tenuto quello. La mia fortuna è che, poi non mi hanno più cercato, che quando ho venduto delle radio, no? Gli ho abbinato quel microfono e l'ho dato via così, e non mi hanno più cercato, non mi hanno detto niente, evidentemente andava bene così a questo, ho capito, non ne cumpli in via nuda, per dirti, quindi non mi fido a comprare su eBay, Giulio. Poi a volte fanno le fotografie da internet, te lo mettono nuovo, quando ti arriva il tuo graffiato. No, questo già non ne aveva graffi, era nuovo, nuovo, nuovo, infatti ho detto, cazzo, per 80 euro spedito, è nuovo, nuovo, sono andato a provarlo, Gianni mio, una gagata di radio, ma proprio sporca, brutta, io che sono abituato al 60, per me è il numero uno come microfono, ma ti dico che usciva così male, gli ho dovuto dare il mio, gli ho dovuto dare il mio perché veramente altrimenti facevo brutte figure. Anche ricondizionato, poi bisogna vedere in che maniera è stato ricondizionato, effettivamente l'hanno portato alla cosa, all'origine o meno. E purtroppo è un rischio, è successo anche a un altro amico che aveva comprato un MP3 che poi invece in realtà non andava, addirittura non funzionava proprio. Trasferito ad un altro amico fuori della Bassa Italia e gli hanno cambiato addirittura completamente il modulo diverso, non è più TMP3, però gli hanno fatto un buon lavoro. Non ti dico chi è perché non va bene, frequenta lui, non c'è, per cui non ti do il nome. Vai là. Sì, avete parlato in due, comunque ho sentito tutto. No, già, non ti preoccupare, io fui. Quando compro sono solidale perché non mi piace dare cose che poi non funzionano, ti creano problemi, capito? Quindi se do una cosa, grazie a Dio, tutto quello che ho dato non ho mai avuto nessun reclamo, anzi mi hanno ricontattato per averne altre di cose. Perciò è brutto quando uno ti dice sì, nuovo, a posto, qui là, dimmelo, guarda, mi si è bruciata la capsula, gli ho cambiato la capsula, se lo vuoi è così. Poi invece il cliente è proprio druffaldina, capito? vendono la roba per disfarcene e per inculare gli altri. E la capsula è la cosa più importante. E quindi questa è radio, questa è una capsula originale Kenwood, che è il cuore di questo microfono. Se tu cambi la capsula all'MC60 non sei più, è rovinato per sempre, capito? Vai Giulio. Ok, io ne ho 4 mi sembra, 4 o 5 microfoni di quelli adatti per cantare, proprio quelli da professionisti. Ne ho uno di microfono per cantare che costa 650 euro costa, e quasi quasi voglio provare se riesco a farlo funzionare anche col baracchino, non col K, col baracchino, se riesco ad adattarlo, così per pura curiosità e anche per fare un po' di hobbismo e di elettronica. Voglio provare a uno ad adattarne qualcuno al baracchino, vediamo un po' se riesco a farlo funzionare. Ci dovrei riuscire perché so che è fattibilissimo questo discorso. L'avevo fatto una volta alla buon'anima di Emanuele, ne aveva comprato uno da un senegalese, di quei microfoni così, tipo per cantare, ma era una cosa da 10-15 euro. Io addirittura la giuro da professionisti, 650 euro quel microfono costa, che me l'aveva di mia figlia, no? E poi altri microfoni sempre per cantare che mi aveva dato mio fratello, che tutti funzionanti, uno meglio dell'altro. Avanti Gianni. Io per cantare ho lo stesso microfono professionale che si chiama Shure, come quello del baracchino. È della Shure e c'è anche l'asta, tutto quanto. E quello lì lo stesso costa un po' di soldi. E quello l'ha regalato la mia compagna per cantare e lo usiamo tutti e due. Sì, e infatti anche il mio mi sembra che sia quello costoso, che costa, che si chiama Shure, anche quello, se ricordo bene. Adesso io quando ce l'ho davanti, perché non posso essere certo, però mi ricordo che più o meno la marca dovrebbe essere quella. E dunque va bene. No, anch'io, io ce l'ho, io ho un karaoke, io ce l'ho qua, una radio che posso attaccare qualsiasi microfono, addirittura posso attaccare anche una con una prolunga dalla parte delle cuffie del baracchino, le posso attaccare al karaoke e sento la modulazione in questo. Guarda che è una cosa alta, all'incirca saranno 60 cm da terra, tu immaginati un amplificatore professionale, è una cosa del genere, però questa è una radio, nel vero senso della parola, attacchi il microfono e parli, e allo stesso tempo se vuoi ascoltare il baracchino ci metti il cavo su adatto all'auser e dunque trasmette il baracchino nelle casse di questo karaoke, che è un altoparlante grandissimo, sarà un altoparlante di almeno 25 cm di diametro, dunque un'eccezionale emissione radio sento. No, va molto molto bene. Avanti Claudio. Sì, rispondi già. Ce l'abbiamo anche noi a casa in Giugio, però non è il mio, è della mia compagna. È un impianto professionale, c'ha tutto, ecco, amplificatore, le casse, tutto quanto, è enorme, c'ha il sub più le casse, solo che in casa non puoi attaccarle mille passavatt, non puoi metterlo a tutto il volume, quando canti lo devi tenere un po' basso perché sennò disturba. E con quello lì cantiamo su StarMaker, che praticamente è un programma per cantare dove ti premiano, dove partecipi a diversi concerti fatti sempre sul web, eccetera, eccetera. Sì, beh certo. Sì, il mio addirittura ha tutti i comandi per i bassi, per mettere i bassi, per mettere gli alti, i toni bassi. Insomma, diciamo che è un bel karaoke, veramente. Attacca il microfono, quindi per cantare canti con una potenza eccezionale, però non è che la puoi usare troppo forte, se no si sente da qui alla chiesa, si sente la radio, per cui non è che puoi mettere troppo volume. Però però per dire ce l'ho, e non solo quello, poi anche un altro stereo che anche lì posso attaccare il microfono suo e anche lì canta, uno se sa cantare può cantare, non è problema, o perlomeno puoi registrare anche le canzoni che senti, insomma tutto quanto fa, tutte queste cose te le fa, per cui no, non c'è problema. Poi ne ho un altro ancora di stereo, quello addirittura mi trasforma una registrazione, per dire, su una cassetta, lo posso passare e farlo in CD, trasformarlo in CD. Insomma, diciamo che già sono attrezzato elettronicamente, solo che cosa vuoi, ti sembra che mi metto lì a pasticciare tra virgolette, con tutte queste cose, la capisci, vai Gianni. E anche io ne ho tre, ultimamente avevo comprato, vabbè c'ho il karaoke, quello che si usava prima con il CD sopra eccetera eccetera, che si attaccava al televisore, quello ce l'ho, è funzionante. Poi ho comprato ultimamente una cassa di quelle che si usano adesso da 1000 watt, dove puoi mettere la pennina, ti fa la radio, ti metti la pennina, in più puoi cantare e canta col Bluetooth. Praticamente i microfoni sono Bluetooth, tu metti Bluetooth dal telefono e canti, metti la musica, per dire, dal telefonino o dal computer e te la trasmette nella radio e si sente praticamente un bel forte e puoi cantare col microfono senza fili. Sì, quello io ho le cuffie così anche, no? Che sono interfacciate col telefonino, per dire, no? E se voglio, per dire, parlare con te, posso interfacciare anche il baracchino nella cuffia e io mi allontano anche di 200 metri e ti sento sempre, no? Non c'è problema, non c'è. Per cui, oltre al fatto che è Bluetooth anche quello, no? E poi se ricevo la telefonata automaticamente sparisce la trasmissione e posso rispondere alla telefonata. E poi cambio stazioni, cambio radio, insomma, perché mi fa anche la radio e mi fa tutto indistintamente. Un paio di cuffie, le ultime che mi aveva regalato mia figlia, che sono veramente un'ultima cuffia. Però anche in macchina, se voglio utilizzare le cuffie in macchina, cosa che non si possono usare, però se ricevo una telefonata posso rispondere direttamente con le cuffie, posso rispondere, non c'è problema, solo che con le cuffie in macchina non puoi guidare, però diciamo con il pad ascolta ce l'ho lo stesso, ho il coso per la macchina, no? un altro aggeggio ancora, diciamo che sono ben attrezzato elettronicamente Gianni. Vai Claudio. E Claudio si deve essere assentato. E vabbè, anche io ne ho a casa, tra me e la mia compagna ne abbiamo di attrezzatura, cuffie, microfoni, te l'ho detto, perché noi cantiamo ogni sera, partecipiamo a queste gare di canto eccetera eccetera, e a me mi ha appassionato molto questa cosa. Prima sì, cantavo, mi piaceva la musica, però non era questo livello, adesso ogni sera mi abbigliando male. Ma è un'attività bella, a chi piace cantare, soprattutto se uno sa cantare, è piacevole anche ascoltare e divertirsi. Io non posso fare perché sono stonato peggio di una campana, per cui non mi permetto nemmeno, se canto solamente quando ci siamo in amicizia, ma solo per ridere e basta, perché quando apro bocca io è capace che diluvia, non piovero, diluvia, non si sa mai, anche se sei in piena estate. Per cui no, però cosa strano, perché tutti quanti stanno cantando nella mia famiglia, tutti indistintamente, a partire da mia figlia, miei fratelli, miei nipoti, tutti indistintamente, cantano tutti quanti molto bene e io sono abituato, o meglio, se canto insieme a loro sono intonato, perché seguo e vado con lo stesso tempo, con lo stesso ritmo eccetera, però se apro bocca da solo, mi perdo subito e sono stonatissimo già. Allora giù, il problema è questo qua, se uno canta sempre riesce a educare la voce, se uno canta ogni tanto, anche io prima diciamo gli acuti non li facevo bene, adesso da un po' di tempo a questa parte, da quando sto cantando, so fare anche gli acuti, praticamente ho cantato qualche cazzo di Claudio Villa, eccetera, eccetera. Quindi, ma mi diverto, più che altro io mi diverto, non vado a fare, boh, non è che vado per espormi come fanno certi che si vede che sono cantanti, che cantano anche, per dire, fanno serate, eccetera, eccetera. No, a me piace cantare, punto, mi diverto così, mi mettono tanti mi piace, eccetera, eccetera, quindi un po' mi sta prendendo, va. E poi sono entrato primo in un concorso che hanno fatto, quindi mi stanno andando anche bene, là. Meglio così, se uno possiede le qualità per cantare, è bene anche che li sfrutti le possibilità che ha. Dunque non è male, dai, non è male, anche perché uno si diverte, ricantare porta allegria, porta a tante cose molto belle, molto interessanti, per cui no, io no, io ripeto, per dire, io ho la stessa voce per dire che a mio fratello, no? Sicuramente, però se canto insieme a lui andiamo di lusso, di pari passo, e tu non distingui la mia voce da quella del mio fratello, nonostante che lui è addestratissimo, che canta, eccetera, eccetera, che ha fatto dei CD, ha fatto, eccetera, eccetera. Però se canto da solo è meglio che sia zitto, perché sgarro completamente. Se invece canto insieme a lui, non lo so, una specie di guida che mi trasmette, ecco, e vado bene, diciamo che vado bene, e non c'è nemmeno, anche perché abbiamo la stessa timbrica, eccetera, di voci. Ma se canto da solo, lascia perdere, già, che è meglio. Sono buono. Vai, vi stavo ascoltando, che mi sono allontanato un attimino, ma vi stavo ascoltando, vai. No, praticamente, per te all'inizio ci vorrebbe una voce guida, ci sono quelle basi che hanno la voce guida, che ti seguono il tempo, e tu nello stesso tempo segui a loro, capito? Quindi con queste voci guida impari a cantare bene, andare a tempo, eccetera, eccetera. Quindi prima ero una campana bruio, e poi piano piano, a furia di cantare, la sto educando la voce, capito? Non ti dico che sia chissà che cosa, però un po' educata. Ok, lo so già che vuole educata la voce, quello è vero, però no, lo fa per me, cantare da solo lo fa per me Gianni, assolutamente no. Se canto in coro insieme agli altri va anche bene, ma se canto da solo è meglio niente. Vai Claudio. Canto o ce l'hai o non ce l'hai, beh, tuo fratello professionista, io l'ho anche sentito una volta, è un grande professionista, quindi medesimarsi in quello che fanno loro, anche se insomma uno non lo fa da professionista, è sempre difficile, capito? Tutto qua, però già va bene. Sì, uno di quei microfoni ce l'ho anche io, c'è l'antennino nel microfono e si accende, c'è una spia rossa, è anche professionale, dentro una scatola, non mi ricordo chi è che me l'aveva dato, adesso non me la metto, però ce l'ho. Avanti già. E comunque è un divertimento, mi claro, non è che sia. Io all'inizio così cantavo solo lì, però poi mi ha preso anche a me e ho cominciato a cantare anch'io. Dico la verità, la musica mi è sempre piaciuta, ascolto dischi, tanto è vero che tante canzoni che io faccio le so a memoria, perché le ascoltavo già, capito? Quindi le faccio ancora meglio quelle che so a memoria. Beh, poi ti viene naturale, no? È chiaro, ti viene molto più naturale. Una volta che poi fai le canzoni, le studi bene, le canti anche se non tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, è chiaro che poi ti rimangono impresse e non c'è niente da fare. Vai Giulia. Certo che sì, in effetti è così. Poi invece gli altri, c'è un altro, mio fratello, lui non canta ma scrive. Lui scrive le canzoni e poi le canta mio fratello e anche altri soprattutto. Quello quindi è anche soprattutto bravo nella costruzione di chitarre, anche ultimamente ne ha fatto una di chitarra bellissima e se li vende poi con materiali come si deve, eccetera. per cui sono chitarre anche da 6.000 euro l'una le ha vendute, ma in genere fa tutte chitarre intorno a quelle che le richiedono, vari gruppi di professionisti le richiedono, comunque non mai meno di 3.000 euro. Ma l'ultima che ha fatto costava 6.000 euro questa chitarra, un'ultima chitarra con materiali fatti arrivare da fuori come si deve, dove sono i legni così da casa da morto, per così dire, no legni adatti proprio appositamente preparati e studiati per fare le chitarre. Tu li vedi, Gianni, sono delle chitarre meravigliose, ma veramente belle, con una timbrica straordinaria. Anche quella è una sua qualità, li sa fare, li sta costruendo da anni. Oltre a quello ha fatto anche delle mostre di pittura e ha avuto anche un bel successo, solo che adesso in questo periodo purtroppo sembra che sia maledetto dalla sfortuna, ogni tanto un'operazione importante, prima al femore, poi al braccio destro, alla spalla, no? E adesso di nuovo anche all'altro braccio, quello sinistro se deve fare. Sembra bestemmiato questo mio fratello, porca miseria, e ha appena 61 anni, Gianni. Cavolo! Ha fatto molti sforzi nel lavoro, che cosa? Per avere tutte queste storie. Ma lì si sono tutti consumati le articolazioni, così? Allora, lui faceva il carrozziere, lui in realtà lui è un verniciatore di macchine, dunque lì si sono consumate le articolazioni a forza di navigare e fare, eccetera, no? Però ultimamente stavo lavorando nel parcheggio che c'è lì in via De Mille, di fronte all'ospedale civile. Infatti adesso è già più di un anno che non sta più lavorando, proprio perché sempre in malattia e ha avuto queste operazioni. La prima volta alla femore, gli hanno spezzato l'osso, gli hanno messo la protesi lì, guarito quello, dopo mesi gli hanno fatto lo stesso cosa, è stato altra roba di 3 o 4 mesi col braccio appeso al collo, perché aveva il braccio destro praticamente bloccato. Adesso c'ha lo stesso problema all'altro braccio sinistro. Basta una cosa, guarda, oltre a varie altre operazioni che ha avuto, tipo che so io, ho i calcoli renali, roba di due o tre volte addirittura, insomma, sembra bestemmiato questo mio fratello, una persona così in gamba, così brava, di cuore soprattutto, purtroppo è sfortunato, in quanto a salute è sfortunato già. Bella sfiga, cazzo. No, io sapevo che era stato operato al femore perché me ne avevi detto tu, però del resto non ne sapevo. È un casino. Lui solitamente quando si è operato un femore devi farli tutti in due, io molta gente che conosco ha fatto uno, ha fatto anche l'altro. Spero di no per me, perché grazie a Dio io non ho nessun dolore, niente, adesso sto bene, cammino bene, soprattutto ho forza sulla gamba e tutto quanto, prima era molto debole la gamba e ci scendeva da sola, a volte rischiavo di cadere perché mi mollava proprio, mi varava la giura. Adesso invece ho forza, camminando mi ho fatto la muscolatura nuova e diciamo che in linea di massima io sto bene. Sì, beh, certo che sì, meglio così. No, lui diciamo che si è consumato praticamente le articolazioni a forza di navigare, sta il braccio tutto il giorno scartabettando sulle macchine, questo movimento continuo, è chiaro che le articolazioni prima o poi ne risentono. Anche se ha fatto 11 anni di pompiere, ha fatto 11 anni di autista di tram, nel contempo, e non è riuscito mai a entrare fisso né pompiere né come autista. Faceva 3 mesi per dire di pompiere, poi finiti 3 mesi iniziava 3 mesi di tranviere, e non è riuscito mai a entrare, perché non ha avuto mai il calcio ben assestato nella parte di dietro da nessun politico, perché solo così può ottenere certi posti. Allora poi quando aveva superato l'età che non potevo fare più questi concorsi, è dovuto ritornare in carrozzeria, e lì mi si è aggravata la situazione delle articolazioni e gli anni. Ho dovuto continuare a campare lì, giustamente per mantenere la famiglia, ha dovuto iniziare di nuovo con la carrozzeria, ed è anche un bravo beneficiatore delle macchine, però purtroppo è così, è andata così, pazienza, dai. Avanti Claudio. Lasciate un attimo di bianco e conosciamo queste cose, meglio così Gianni, ti sei ripreso, io invece sono sempre le prese con questa lombosciatalgia che non mi passa, adesso mi sto oddio, adesso domani faccio una chiacchierata, c'è un amico che ha un'azienda inerente a quello che facevo io prima, mi ha chiesto se le davo una mano, adesso vediamo se ce la faccio, ben volentieri, però sono molto messo male con la schiena, molto messo male, queste cacchio di visite te le danno quando vogliono loro, quindi vediamo un po', io l'unico problema che ho è la schiena, e poi vabbè mi sono portato dal lavoro questa fascite plantare che mi ha rovinato i talloni, tutti e due i talloni, le scarpe antifortunistiche, e perciò me lo devo portare appresso, ogni tanto mi devo prendere un antinfiammatorio, se no non riesco manco a appoggiare il piede per terra, tutto qua. Va bene, dai, cambio per te Giulio, io vi chiedo 5 minuti di QRX che sto seguendo roba al fuoco, ok? Riprendi Giulio. Ok, d'accordo, siamo qua. Capito Gianni com'è la situazione? È appena 61 anni, dunque non è nemmeno in pensione. Adesso ho tentato di fare di avere una pensione, infatti ha fatto la prima visita, quando l'hanno visto la commissione che l'ha visitato, gli hanno detto caspita, certo che lei come articolazioni è messo veramente male, questo è quello che gli hanno detto la commissione di tre medici lì fanno queste visite qua lì all'ex manicomio giù in Arestino, Gianni, fanno lì queste visite, no? Perché lui sta tentando adesso di avere una pensione, qualche cosa, perché anche se è stipendiato ancora, è ancora stipendiato, non c'è problema, perché l'azienda non lo può licenziare, in quanto è sempre in malattia da un periodo all'altro. Però adesso dice basta, ne voglio uscire, anche perché ha quasi tutti i contributi, ce li ha quasi tutti, per cui penso che ne aspetti anche qualche scivolo, suppongo che non lo debbano dare, però adesso vediamo un po', adesso lo deve chiamare un'altra commissione, lo deve chiamare per un ulteriore controllo Gianni. Lui ha fatto la domanda come handicap. Beh, lui praticamente ha una certa invalidità, quando tu incominci ad essere tutto pieno di placche, così, di cose, non lo so io, di protesi, protesi nella gamba, protesi nel braccio destro, adesso le faranno la protesi anche nel braccio sinistro, e insomma, Gianni, per giunta gli si è aggiunto anche il diabete, gli si è aggiunto, basta, ti sto dicendo, è di una sfortuna in quanto a salute, è una cosa incredibile, già. Auguriamoci che adesso le vada bene. Allora io praticamente so che le visite per invalidità le fanno tutte all'INPS, invece quella per handicap praticamente la fanno lì a Residu, la fanno. Quella per handicap potrebbe essere anche da cause di lavoro, eccetera, eccetera. E vabbè, io andrò il prossimo anno con la pensione proprio con la contributiva, quella diciamo della ditta, dai. Io già una ce l'ho di pensione, però il prossimo anno mi daranno l'altra. Ho già fatto i conti e l'INPS mi ha detto che me la daranno il prossimo anno. Ok, certamente che sì, ti tocca e ce la devo dare per forza, ma la gara. Ma per dire no, siccome lui ancora non ce li ha tutti i contributi, anche se tutta la vita che ha lavorato, però cioè, è lì, è vicinissimo a darmi dei contributi, per cui io penso che un piccolo scivolo glielo dovrebbero anche accordare, e adesso staremo a vedere. Adesso la prima visita l'hanno, è andata bene, secondo il giudizio di questi tre medici di residuo, eccetera. Adesso lo chiamerà una nuova commissione, lo chiamerà e faranno un'ulteriore visita e poi si vedrà. Detto, aspetti un mesetto che lo chiameranno sicuramente per presentarsi, per poter fare un'altra eventuale visita con quest'altra commissione. Gianni, non è, già lo sai come funziona, non è facile ottenere la pressione per certi, in certi casi. Uno se non è bloccato completamente, difficilmente terranno di pensione, però lui mi sembra che le condizioni sue, soprattutto delle articolazioni, non sono certamente molto, molto rose, per cui speriamo che glielo diano, che gli accordo definitivamente questa pensione. Se va costretto anche a rientrare al lavoro, ma tu lo sai come funziona, no? Se non rientri, poi dopo un certo periodo ti licenziano e lui è costrettissimo a rientrare e poi magari rimettersi dopo un po' di tempo di nuovo in malattia, per non rischiare il licenziamento, se no stipendio non ne vedi più, Gianni. No, non esiste più, Giulio, questa storia di rientrare poi. Adesso è anno solare e quando tu fai quel determinato numero di assenze c'è cioè il licenziamento direttamente dall'INPS, non dalla ditta ma dall'INPS. A me la ditta, per dire, non mi ha licenziato, mi sono licenziato io perché non mi conveniva restare, perché io ero in, diciamo, non mi pagavano e quindi ero, sì, risultavo ancora nella ditta, però non mi davano soldi, non ero retribuito, quindi non mi conveniva più restare. Beh, certo che sì, hai fatto quello che dovevi fare, ti è andata bene, ti hanno dato questa pensione, adesso ti daranno quella definitiva, contributiva, e dunque sei a posto, sei tranquillo. Praticamente alla la tua età più o meno, tu hai più o meno quell'età, senso, lui ha 61 anni già. Io ne ho 62, compiti il 20 ottobre. Ho 62 anni più 38 anni di contributi. Ok, ho capito. Vabbè. Lui non lo so quanti anni ancora o quanto tempo le manca per avere il massimo della contribuzione, però c'è sempre il discorso età, che oggi con queste leggi fasulle che stanno facendo il governo, già lo sai, si è legato anche all'età, si è legato per poter andare in pensione. Sì, sì. Ah, volevo dirti, già lo sai che Davide, quando è vicino a bottega, non c'è più, ha chiuso definitivamente il negozio ed è entrato a lavorare con un'azienda come manutentore in ospedale, lavora in ospedale, Gian. Sì, sì, ci siamo sentiti, perché sono passato due o tre volte per comprare il mangime per i pesci ed era sempre chiuso, ho detto ma vedrai che Davide sta male, cazzo, lavoro è sempre sarrado, tutte le ore era chiuso, l'insegna c'era ancora, non c'era scritto nulla, e allora l'ho contattato su Facebook e mi ha detto no, già sono entrato a lavorare con una ditta in ospedale, e almeno ora mi è dispiaciuto un po' mollare, però la strada più sicura è questa qua, e ho detto vabbè, se tu ritieni che sia giusto così sono contento che abbi migliorato, non lo so, se dice un po' mi dispiace, però poi non so tutta l'attrezzatura, tutta la cosa chi l'ha data, se ha venduto gli animali che aveva, boh. Ma diciamo che il negozio c'era sempre, è chiuso ma c'era sempre, adesso il materiale che aveva se lo sta vendendo, tu lo contatti, ti occorre una cosa e lui te la fornisce, quello che ti serve. per cui non c'è problema, forse questo non te l'ha detto lui, magari su Facebook queste cose non le può più dire, perché se lo sai, una volta che chiudi praticamente, sì, però il materiale che ha lui non è che lo può buttare, è ovvio che sta cercando di venderselo e dunque guadagna qualcosina anche da lì, per cui evidentemente nel suo giro lui ci ha fatto una cerchia di clienti, magari telefonicamente lo chiamano, le ordinano il materiale che serve, va lui e te lo consegna direttamente di persona, senza bisogno, o perlomeno ti dà appuntamento al negozio, apre, chiude a serranda abbassata e penso che faccia così, non lo so già, non è che poteva buttare via tutto il materiale che aveva di negozio, no? Lì c'erano un sacco di soldi e da smerciare ancora. Aspetta che hanno suonato. Ok. Era mio nipote, è arrivato a mangiare. Adesso mi sa che mollo perché devo continuare a cucinare, dai, qualcosa l'ho già messo in fuoco e finisco di cucinare, dai. Ci sentiamo, statemi bene, magari stasera se ce la faccio mi faccio una chiacchierata. Ok, d'accordo, già, ci sentiamo, dai, allora anch'io mollo adesso, scendo giù, magari mi metto al computer, insomma, passo ancora questa, un'altra mezz'oretta, 40 minuti prima del pranzo. Ci sentiamo, ciao già, grazie della chiacchierata, dai, è stato un piacere, a stasera se coincide, ciao ciao, stammi bene, buon pranzo. Ciao Claudio, se c'è l'ascolto, chiudo anch'io, ciao, chiudo. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai, buon pranzo. Buon pranzo anche a Claudio, ciao ciao. Ora c'è qualcuno? Attenzione 10. Ora attenzione 10. Telefonate. Attenzione 10, c'è qualcuno? Chiamate. E beh, vabbè. Ciao Romy, sono tornato adesso dai cinesi, ho comprato ieri il centro di capo per quel mouse e non serviva, non andava bene, anche se era nuovo in scatola, di quelli senza filo. Poi sono andato a mia sorella, ne aveva uno, appena attaccato funziona tutto, ha installato quei programmi per le radio eccetera eccetera. E a Franco poi mi ha detto comprate una scheda audio esterna che così costa 4 euro di quelle che attacchi tipo USB. Una scheda audio esterna? Che attacchi USB, a una cassa esterna. Così si chiama, io la chiamo pennina audio, che c'ha l'ingresso audio frontale, così non so passare dietro. C'era la scheda audio davanti, frontale ce l'ha, Robemi. Sì, però mi ha detto che non so per quale motivo prendere un'altra, perché devi fare trasmissione e ricezione, ce ne vogliono due. Vabbè. Pensate che funzioni, là. Sì, già sta funzionando tutto bene, ho preso un altro mouse, anche se sicuramente ne avrò qualcuno, ma non avevo ganare di cercarle, costano 3 euro, ne ho preso uno anche maneggevole, poi cosa mi sono preso? Dei cavettini adattatori da jack a RCA, li ho presi perché se mi toccava intestarli, siccome c'è l'uscita dell'apparecchio con l'ingresso RCA e così ho già gli adattatori. Vabbè, adesso ti abbiamo risolto, no? Te lo usi, poi ci fai vedere, mandi qualche foto, sono curioso di quello che devi fare. Guarda, ieri abbiamo fatto delle prove lui, nemmeno ti immagini cosa riesce a fare con questo cacchio di cose, cosa riesce a vedere e cosa riesce a fare, anche cose, bollettino meteo, posizione di navi, di aerei, tutto quanto, puoi trasmettere, cioè anziché usare l'alfabeto Morse scrivi e all'altra parte le arriva il coso, la risposta tua, puoi vedere un sacco, ma non penso che ci siano meno di 50 cose diverse da fare. Ma praticamente è un programma da installare, gratuito. Non lo so se sia gratuito perché c'è neanche uno a pagamento, lui comunque me l'ha fatto ieri in remoto, mi ha messo tutto, ti è presente che all'inizio stavamo facendo tutte le operazioni utilizzando la tastiera, non hai idea cosa vuol dire a muoverti all'interno del computer, poi alla fine l'ho messo mezz'ora solo per quello, poi come c'aveva il coso, il mouse che sono riuscito a entrare io perché dovevo entrare su Google Chrome eccetera, fanno i controlli, un sacco di storie, te lo devi fare con le freccette, tasti, doppia ha funzionato, un sacco di storie, e l'ha fatto. Poi come è entrato ha fatto lui, ci ha messo 20 minuti dai, perché dovevi rifare dei lavori, riaccendere, riavviare, boh. Ma cosa hai scaricato? TeamViewer, quello lì, per entrare in remoto. Sì, vabbè, quello già è stato veloce, però per fare quel programma che mi ha messo lui, che non mi ricordo ma cacchio si chiama, boh, non lo so, ci ha messo un po' di tempo. Ho capito. Vabbè, interessante. Ma comunque ripeto, il computer adesso è a posto, c'era la pasta del raffreddamento che era, non dico secca del tutto, però l'ho messa nuova, e poi tutta la vento è a posto, e vabbè, la batteria tampone è buona, poi nel caso non lo sapere, ma dovrebbe durare quella batteria perché è abbastanza carica. Dime cosa, ma di RAM io quante ne ho adesso? Due di cosa di RAM? No, 3 giga di RAM, allora ti spiego, se io la porto a 4 aumenta la velocità, non parte, cioè accende il computer e fa non so perché, poi se la porto a 3 va bene. Ma la scheda madre non ce la fa gestirla tutta quella memoria? Che so adesso, non lo so, Robert. Ti direi una balla, ti direi una balla. Io sono appisolato, stavanti adesso ho preparato 3 teglie di pasta al forno e poi ho fatto la torta di mele, sicuramente è uscita molto buona. Guarda, io la pasta al forno è il pasto che io apprezzo più di tutti mi preferirei, qualunque primo, la pasta al forno numero uno ce la metto, e i cannelloni secondo. Poi se tu mi parli di torta, quella della torta di mele, a parte vabbè quelle di pasticceria, quelle sfoglia, tutte quante, quelle non le cerchiamo, di quelle fatte in casa la torta di mele secondo me è la più buona di tutte. Infatti, confermo. A me, ti faccio un esempio, quando l'ha fatta lei con le gocce di cioccolato, non mi biasi, a me piace un sacco. E come? Con l'uva passa pure, con la reggia. Dillo a me, panettone mi faccio a porco, ne mangio pure esageratamente, mi base pure male. Non dico mi mangio mezzo panettone, ma quasi me lo mangio. Cazzo, ma se ne mangiava una, un morso, ma veramente qua, come se fosse una merendina. Adesso non ne può più mangiare perché è diabetica. Sì, no, io, però lo sai cos'è, che i panettoni di adesso, cacchio, non sono più come quelli di una volta, avabboni in un poco di conservanti, li fanno per dire, quando è Natale, a Natale, a coso, a febbraio stanno già facendo i panettoni per il Natale successivo, per cui è tutto un impatto, lunga conservazione, se buoni un bel di roba, se tu ne assaggi uno di quelli fatti dai pasticceri artigiani, per dire, qua in città, è tutto un altro gusto, lo puoi tenere 2 giorni aperto all'aria, su questi qui ti danno subito, ti fanno un po' di acidità di stomaco. È vero, panettoni sì, vabbè, ne fanno in quantità, Robè, non ne fanno uno, ne fanno, lo dico, a milioni, ma... Ma poi scusa un attimino, come fai tu a vendere un panettone al supermercato, tolte tutte le spese lo vendi, quello della Maina, parliamo di quello commerciale, in scatola costa 3,40 euro, in busta 2,90 euro, cosa costa il prodotto per cosa? Cosa è 50 centesimi, perché poi c'è la produzione, tutte le spese, energia, cioè a cosa devi munire 30, poi fai in pasticceria un panettone da un chilo lo paghi 20 euro, ma che cosa giamba, no? Lo so, e beh, certo. Certo che si cambia e come? Il problema è che questi panettoni qua, questi in busta, questi panettoni pandori, è un casino. Comunque guarda, io ho comprato, Robert, a parte i panettoni e tutte queste cose, i papassini lì dal Conad, ma buoni, guarda, lucina buoni, guarda, mando le uva passa in mezzo, e in più la, lo si chiama, la cappa. Guarda, i papassini mi mettono dopo la strada e mi hanno regalato una cosa, Claudio, perché stavano parlando i papassini, già te ne porto, che c'è il suo vicino, e mi ha portato un vassoio, me l'ha mangiato di tutti i canti, non me l'ha mangiato tutti in un giorno, in una settimana, due adesso, due dopo, ogni tanto andavo nei bigliacchi, io ne mangio troppi, tra papassini e tiricchie divento male. No, vabbè, papassini per esempio, tiricchie un po' meno, papassini sono buoni, vuoti di guro, tipo quelli che ho comprato, guarda, erano veramente buoni, gustosi, poi c'ho le mandorle intere in mezzo, di solito le tagliano, no, pezzettini piccolini, questo qua c'erano intere le mandorle, ma buone, però aspetta, se mettono quella, come si chiama, io la chiamo scorza d'arancio, no, quella, i canditi, non mi piacciono. No, infatti non io li mangio i canditi, mi piacciono, però non bisogna esagerare. E cosa ti volevo dire adesso? No, la roba della Conad è buona, io compro tante cose, anche per dire, ti fanno la pasta col pesto, gli gnocchetti, non so, cucumenti, te li fanno di lì la mattina e poi li mettono sotto vuoto, ma più di una volta li ho comprati, ti posso dire, la roba è buona. Poi fanno questi tranci di pizza, però devi mangiare in giornata, se li mangi il giorno dopo sono un po' pesanti le favette. A me mi capita molte volte, quando non ho il tempo da bilire, esci, mi prendo quelli, me li metto in frigo, poi domani o la notte, quando ne voglio, me li mangio. Dimmi un po', ma dove sei tu adesso? Non sei a casa tua? No, no, no, sono da 25. Ah, l'hai risolto, meno male, sono contento. Segui il consiglio mio, abbassa ogni tanto la cresta, che è meglio. Si trovano i giusti compromessi, lui, e poi si va avanti. Vabbè. Sì, ho visto che vendono un po' di tutto al Conad. Io sono andato in via Amendola, c'è un po' di tutto, un po' di tutto e un po' di più. Tu vuoi fare via Gramsci? Di lì è grande, è bella, bella servita, dai. Anche Città Mercato è bella, quella Città Mercato è ancora più grande. Ti volevo dire una cosa, ho trovato un tipo, un amico che non sapevo che era CB e mi ha fatto proprio per telefono, diciamo, stavamo cercando roba di lavoro, mi stava chiedendo, perché lui si occupa anche del restauri e cose del genere, ti sento ogni tanto, io voglio mettermi il CB, il baracchino, si chiama Piero, e mi ha detto il nominativo, cacchio nominamento, ma lui ci manca 15 anni in frequenza, sicuramente tu lo conosci, perché conosci a Claudio, quelli nomi che gli ho fatto tutti quanti se li ricordava, e poi io li ascolto ogni tanto, però siccome lui fa raduni di autostori, che cose così, e c'ha una 500, bella, fatta bene, ci voleva mettere il baracchino, c'era il baracchino, l'antenna, e mi ha chiesto se c'era un baracchino piccolino da mettere, guarda, non è un baracchino piccolo, e perché io ne ho un paio, c'ho un paio di puni, c'ho un pace piccolino, però il pace non so se funziona, e stava parlando, dice, fate a chi non entri, ma ci vuole l'autorizzazione, fate l'autorizzazione, non ci vuole niente, allora già li metto, perché io molte volte accendo e non sento nessuno, e dopo poi vieni la sera, si chiama Piero, il cognome non te lo posso dire, però mi ha detto nominativo, nominalmente come ti si chiama? Aspetta, no, Piero si chiama, ma Piero Drago? No, non Drago, c'ha un altro nome. Ah, boh. Non lo so, vabbè, se lo risenti, io ce l'ho, lo sto vendendo il Mobicom, se lo compra, se lo vendo. Ma lui mi ha detto omologato, dico, ma cosa, te non vanno mica a controllarti, dico, perché poi c'ha un Pluto, un Galaxy Pluto, mi ha detto lui, ne ha due o tre di questi baracchini, ci aveva la mantova uno, dice, lui mette una lampada in terra, e dice, senti, attino, bene, deve essere, lui abita in zona di giù, nella Budi, nella parte bassa, si chiama, cacchio, nominativo non me lo ricordo, ma l'ha detto, ci sente spesso, hanno dice già vi sento ogni tanto, solo che quando accendo io molte volte non mi però dico sento a te, non lo sapevo che c'avevi il baracchino, sento a Claudio, metto un po' di tutti. Non so, non ce l'ho presente. Ma quello l'ho omologato il Mobicom, Roberto, è omologatissimo. Nel caso, se lo vuole. Piccolino, non è grande. Ma l'MB40 sta dicendo. E allora? Ce l'ho anche io, uguale, identico, l'ho dato a cosa? A Giovanni Bracco, a radioamatore, che lui quando entrava qua gliel'ho dato perché c'aveva un vecchio Sommercamp, un marrasone, si sentiva tutto ronzio, gliel'ho dato, te usatelo. No, va bene quel baracchino, poi quello c'ha tutte le bande, in pari c'ha 5 bande, grazie. Sì, 5 bande, dalla banda A alla banda E, A, B, C, D, E, sì. No, già funziona, c'è il frequenzimetro pure se non sbaglio. Lo so ancora un bel che non lo vedo, ce l'avevo sempre conservato, l'avevo portato a Platamona quando va tanti anni fa e poi non l'ho mai più usato. E si conferma anche il frequenzimetro. Ah Mari, mangiamo? Vabbè, mi sa che io ti lascio che andiamo a preparare il preparato. Una scaldatina, perché l'abbiamo cucinata stamattina, a passare al forno. Malincuorio, ti lascio perché ho fame. Lei anche sta aspettando, mi chiama, dai, già ci sentiamo se coincide stasera. Ciao ciao, buon pranzo e saluto a tutti di rincasso. Grazie, ciao Robert, ciao ciao, buon pranzo anche a te, ciao. Ciao anche a chi sta ascoltando, orecchi di porco. Sì, adesso vediamo se qualcuno vuole entrare, io sto facendo orario, se non me ne danno ci vado a mangiare, se me ne dati. Avanti sul 10 che vuole entrare. Ora, attenzione 10.